beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. I like Rubio. I've never met him, nor have I met Crist. But I know that there's a sea change brewing and effervescing in this country. The Democrats are committing. La voce di Rush Limbaugh, intontiti, stonati, certamente svuotati nei portafogli, gli americani si risvegliano dal weekend del ringraziamento, riemergono, no? E una delle cose che può contribuire a svegliarli è per l'appunto la voce di Rush Limbaugh, che è stato stabilito dal sondaggio appena svolto dal più autorevole magazine televisivo d'America, 60 Minutes, e insieme dal magazine Vanity Fair, che è certamente il conduttore radiofonico, beato lui, preferito dagli americani e considerato più influente dal punto di vista conservatore, ovvero per chi ha una visione conservatrice dell'America, la voce di Rush è quella che conta, è quella da ascoltare e da seguire. Lo hanno detto 26 su 100 degli intervistati, mentre 11 su 100 hanno scelto il ben più provocatorio, la new entry, no? L'ultimo arrivato, il nuovo ricco Glenn Beck, e il 10% invece hanno fatto delle scelte orientate più sulla presenza e sulla partecipazione politica al dibattito, ovvero quella del ex vicepresidente Dick Cheney e della candidata alla vicepresidenza, però in un ticket perdente, ovvero la sempre presente Sarah Palin. Nello stesso sondaggio hanno infilato diverse altre domande i nostri amici di 60 Minutes, per esempio una domanda secondo me un po' oziosa ma sicuramente tipica da weekend del ringraziamento è: se dovessimo aggiungere un altro faccione di presidente a Mount Rushmore, no? La montagna dove sono scolpite le facce dei presidenti che contano, se sei lì, sei veramente nel gota della Casa Bianca, chi ci metteresti? E hanno offerto di mettere la crocetta su 7 grandi presidenti. Ebbene, ha vinto John Fitzgerald Kennedy, scelto dal 29% degli americani e seguito dal 20% delle scelte che si sono orientate su Ronald Reagan. Invece solo il 26% degli americani, sempre in questo sondaggio, ha detto di sapere che cosa sia esattamente questa public option su cui i politici americani si stanno scannando e ricominceranno a scannarsi questa settimana in Senato per la questione della sanità. Ma torniamo alle voci conservatrici, perché ci sono un paio di notizie che riguardano personaggi cui abbiamo parlato spesso e volentieri qui a Radio 24 ai tempi di Jefferson. Si chiama Mike Huckabee, è stato un valoroso candidato, diciamo il terzo classificato della corsa alla nomination repubblicana, quando c'erano Romney, vi ricordate, quando c'era McCain, che poi se l'è aggiudicata. Ebbene, Huckabee, che sembrerebbe essere il preferito degli americani per un possibile ritorno a correre per una nomination repubblicana nel 2012, ebbene Huckabee ha detto: no signori, io non ci penso proprio, a me piace moltissimo fare quello che sto facendo adesso, ovvero la radio, eccoci di nuovo alla radio, e la televisione, ha uno show su Fox, e esclude di ripresentarsi nel 2012. Nel frattempo sempre lo stesso Huckabee finisce un po' di sponda nei guai, perché quella storia bruttissima di cui vi parleremo ora, che è andata in scena a Seattle con un uomo armato che ha aperto il fuoco in un caffè e ha ucciso 4 poliziotti, li ha freddati attorno a un tavolo da caffè. Ebbene, quell'uomo, che si chiama Maurice Clemons, 37 anni, era stato graziato un po' inspiegabilmente proprio da Mike Huckabee quando Huckabee era governatore dell'Arkansas. Dopo una rapina gli era stata prima comminata una pena di 35 anni, poi era stato liberato sulla parola perché Huckabee aveva sostenuto nella giustificazione della grazia che era ancora un ragazzino e che bisognava dargli la possibilità di riscattarsi. Sicuramente le cose non sono andate per il meglio e Huckabee per ora non commenta questa storia nerissima. Primo piano. This is an example of the cost that is sometimes paid by people who believe in duty and obligation and sacrifice. Questo è lo sceriffo Paul Pastor che sta parlando proprio della storia in questione. Dice: questo è un esempio di che cosa vuol dire vestire una divisa nell'America d'oggi. Erano quattro poliziotti, anche piuttosto esperti, quelli che si erano seduti a un tavolo del locale Forza Coffee, si chiamava così, a Tacoma, nei dintorni di Seattle, e si stavano prendendo un caffè e stavano consultando i loro laptop, i loro computer, quando è entrato quest'uomo, sembra essere proprio trattarsi proprio di Maurice Clemons, 37 anni, ha aperto il fuoco senza parlare, li ha uccisi tutti e quattro. Naturalmente una storia che primeggia nei telegiornali della mattina dell'America, una storia nerissima, oltre che bagnata di tanto sangue, che si conclude, si completa con un'altra notizia che riguarderebbe l'individuazione di Clemons in una casa di Seattle. Sarebbe stato sarebbe stata circondata questa casa, sarebbe stato agli abitanti della zona sarebbe stato chiesto di non uscire di casa, si sono sentiti dei colpi d'arma da fuoco. In realtà stiamo tenendo d'occhio con molta attenzione i siti informativi americani, perché da un momento all'altro è possibile che la vicenda si chiuda. Ormai danno per certo la presenza di questo Clemons all'interno della casa nella zona east di Seattle. Ripeto, a minuti potrebbero arrivare le notizie dell'epilogo di una vicenda comunque tragica. Ooh, it's Black Friday. Ooh, it's Black Friday. Ooh, I'm at the Best Buy. I'm at the Best Buy. Questa per fortuna invece non è una vicenda tragica, e non è forse un po' di tragedia c'è, ma è solo per i portafogli americani, perché l'avevamo annunciato, insomma, c'è stato, è andato in scena sonoramente, magnificamente. Questo era il rap del Black Friday, quello che stavamo ascoltando, una shopper che se ne va in giro tra gli scaffali carichi di merce e piena, no, di quella eccitazione che gli americani chiamano shopping spree, insomma, proprio con la voglia di buttare tutti i suoi soldi, improvvisava il suo rap. Sono stati, sentite questa cifra, sono stati 195 milioni i consumatori che hanno visitato i negozi o comunque la rete nel weekend. L'anno scorso erano stati 172 milioni. 195 milioni, che è una cifra che non riusciamo neanche a concepire, vuol dire praticamente due americani su tre, tra tutti quelli viventi, anche quelli che stanno nel deserto, hanno speso un po' meno dell'anno scorso, $343 a testa invece dei 372 dell'anno scorso, ma hanno messo insieme comunque nelle casse del commercio americano la bella cifretta di 41.2 miliardi di dollari. Adesso si pensa già di cercare di farli tornare per Natale, fargli spendere altri soldi, invogliarli con altri formidabili saldi, ma sono piuttosto pessimisti gli analisti di settore. Cresce il numero di quelli che fanno shopping solo online sulla rete, da 85 milioni siamo passati a 96 milioni, cifre formidabili. Mi chiamo Sean McNamara e sono un chirurgo plastico. Vi capita mai di guardarvi pensando: tutte queste rughe attorno agli occhi mi hanno scocciato? Nip and tuck, la santificazione, la romanticizzazione della chirurgia estetica, insomma, romantico per modo di dire, però fra gli shopping prediletti dell'America del XXI secolo c'è anche la chirurgia estetica, e adesso c'è una notizia che mette in forse tutto questo, almeno lo mette in forse per i meno abbienti, per chi veramente fatica a mettere insieme i soldi per rifarsi, che ne so, le borse sotto gli occhi, tanto per stare leggeri. Già l'hanno soprannominata Botox, che prende in giro naturalmente il Botox, il botulino che si usa contro le rughe, una tassa del 5% che sarebbe infilata tra le pieghe della riforma della salute che è in discussione al Senato. Per la liposuzione, per qualsiasi tipo di intervento, bisognerebbe pagare un po' più soldi, perché così vorrebbero i legislatori di Washington, in quanto trattasi di chirurgia estetica, niente di necessario, un'America del XXI secolo che prova, no, un po' a moralizzare anche anche i suoi vizietti consumistici. Ci riuscirà? Grande punto interrogativo in questa fine di secolo. Buongiorno America. Mikhail and Tariq Salahi seen here face to face with the President of the United States, India's Prime Minister, you see right there in the background. Fioccano, ce n'è anche una in corso in diretta in questo momento su Fox. Fioccano le tavole rotonde addirittura degli esperti televisivi, degli addetti ai lavori, di quelli che la sanno lunga, su come abbiano fatto questi due signori, Tariq e Mikhail Salahi, a penetrare, no, gli intrusi della Casa Bianca, a penetrare nel famoso pranzo in onore del primo ministro indiano alla Casa Bianca e a incontrarsi non solo, come si pensava la settimana scorsa quando ci siamo salutati, con Rahm Emanuel, con il vicepresidente Joe Biden, ma anche niente meno che con Barack Obama. Sono saltate fuori le fotografie dei due che stringono la mano a Obama, il solito Obama che, non sapendo chi è naturalmente, chi sono naturalmente, sorride, cioè buongiorno, siamo due attori di un reality, magari avrebbe fatto una smorfietta, chissà cosa gli avranno raccontato e quale domanda così d'occasione, no, di rito gli avranno fatto. La questione è che i responsabili della sicurezza della Casa Bianca sono sotto accusa, sotto un fuoco di fila, perché questi due signori Salahi non avevano né il passi né tantomeno il loro nome era segnato alla porta, e chi cerca di entrare nelle discoteche il sabato sera sa di che si tratta. Invece questi sono entrati alla Casa Bianca e si sono presentati al cospetto di Barack Obama, naturalmente con un aumento del 400% delle minacce di morte indirizzate al presidente da quando il presidente Barack Obama. Sono saltati un po' tutti sulla sedia. Ci dovrebbero essere conseguenze legali per i due, che però stanno padroneggiando la questione con come dire, una scioltezza e un savoir-faire che francamente preoccupa e un po' anche inquieta, no? Perché di questi cacciatori di celebrità, di visibilità, si sta un po' riempendo la cronaca americana. Di sicuro i due prima hanno accettato, poi hanno cancellato una partecipazione allo show di Larry King, un'intervista con Larry King a CNN, e adesso hanno semplicemente fatto uscire tramite il loro avvocato un comunicato nel quale chiedono quattrini. $500,000 è la cifra fissata dalla coppia per rilasciare una intervista a una televisione. Si aspettano offerte, dice il comunicato in questione, mentre si conferma la possibilità che i due prima di tutto fossero sponsorizzati da una televisione nell'impresa, e che poi il tutto alla fine finirà in un reality show, anche questo un po' da brividini, però questo è il presente, questa è la comunicazione. Su questo poi converrebbe anche ragionare, anzi adesso mi è venuto in mente, nei prossimi giorni lo faremo. After 8 years, some of those years in which we did not have, I think, either the resources. Costui invece è l'autorizzato a parlare e lo farà domani sera, lo farà in un posto molto rituale dove si va a parlare se si hanno cose da dire assai importanti, soprattutto attinenti a questioni militari, a questioni di politica internazionale. Andrà all'Accademia di West Point Barack Obama per il suo discorso, che verrà diffuso in televisione a reti unificate o quasi a reti unificate, insomma il discorso nel quale Obama confermerà che sono 30.000 uomini, è di 30.000 uomini la forza militare che si andrà ad aggiungere a quella già presente in Afghanistan. Pare però che saranno anche altre le cose che Barack Obama dirà nell'occasione. Il New York Times di stamattina rilascia un'indiscrezione, dice Obama sarà più esplicito sugli obiettivi e sulle varie fasi del disimpegno di quanto non lo sia stato finora. Vuole fare chiarezza sul periodo dell'azione e su quello che che porterà a un graduale esaurimento della guerra. Insomma, dirà andiamo, ma guardate che prima o poi anche torneremo. Più o meno dovrebbe essere questo il messaggio, dando probabilmente anche una agenda dei relativi lavori. Il piano prevede 30-35 mila uomini, un dislocamento che dovrebbe prendere dai 12 ai 18 mesi, impegno iniziale nella provincia di Helmand che risponde all'esigenza di ottenere risultati concreti in una regione nella quale il generale McChrystal si è concentrato all'inizio dell'anno e dove si sono svolti finora i più sanguinosi combattimenti. Domani notte, a tarda notte, ora italiana, la conferenza, il discorso di Barack Obama. One car crash right in front of his own home. Now Tiger Woods is enduring a media spotlight rarely found. Difficilmente sarete riusciti ad evitare questa notizia anche nei telegiornali italiani, perché il personaggio è uno dei più globali che l'America d'oggi sappia offrire, ed è Tiger Woods, il super campione del golf, come mai non era esistito uno prima, e anche un gran campione dell'advertising americano, della pubblicità. È uno che fa pubblicità per un sacco di marchi che possono essere anche vagamente connessi col golf, no? Quelli del lusso accessibile, come si dice, un bel orologio da regalare al marito per l'anniversario, che ne so, il resort dove andare a passare una festa particolare e tante altre cose. Di fatto è finito contro un albero con la sua macchinona da miliardario, cioè è finito a bassissima velocità, tant'è vero che non sono aperti neanche gli airbag, ma la macchina era completamente distrutto e anche lui era parecchio distrutto, con la faccia piena di ferite, nell'albero del vicino di casa. La sua casa era quella accanto, tant'è vero che la moglie è uscita e con una mazza da golf, di cui è piena la casa di Tiger Woods, pare aver sfondato il parabrisi e aver tirato fuori il marito. È tutto vero? È tutto falso? Secondo me è più falso che vero. Lui si rifiuta di parlare con la polizia, ha rilasciato un comunicato in cui dice: è stata solo colpa mia, ovviamente tutto questo ha messo in imbarazzo la mia famiglia, ho avuto un incidente da solo, mi sono procurato delle ferite, cercherò di fare in modo che queste cose non si ripetano. Io direi che questa, alla fin fine, per fare un po' la morale della storia, è probabilmente una vicenda di corna, ma può essere anche un po' succintata come la disgrazia di essere Tiger Woods, che poi, se lo portiamo, no, così in salsa italiana, è un po' la disgrazia di essere, che ne so, Alessandra Mussolini, per esempio. Bisogna decidere se siamo del parere che se hai voluto la bicicletta a pedale, quindi se hai voluto essere un personaggio pubblico, poi come tale devi comportarti, quindi sotto un monitor mediatico sempre acceso e quindi pronto a essere giudicato anche per questioni su cui tu non vorresti e non dovresti forse essere giudicato in quanto privato, o se invece esiste anche nella celebrità poi un confine che non può essere varcato. Mi sembra che la questione, peraltro, sia al centro del dibattito e della discussione generale in queste ore, anche sulle pagine dei nostri giornali. Ci torneremo a Buongiorno America, dove c'è il sottoscritto Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Carmelo Lauricella a Milano. Come sempre una email, buongiornoamerica@radio24.it, una pagina Facebook, redazione Jefferson 3, una replica che andrà in onda dopo mezzanotte, una diretta che torna a farsi sentire domani dopo l'una e mezza qui da Radio 24. E a tutti voi auguro di stare benissimo.